Ciao Marta, qua correndo da un giorno di un posto all'altro facendo le ultime cose che purtroppo devo tornare. Lo so. Lo so, mi dispiace pure per te, perché te capisco. Anche a me tanto. Non ci voglio stare io qua, figurati te. Allora, sì. Noi non ci siamo sentite per un po', perché insomma diciamo che poi una va a casa e ogni tanto la lasciamo anche in pace, e soprattutto perché poi esplode la Colombia. Comunque il bollettino che oggi non abbiamo fatto in tempo a leggere, ma che troverete comunque sul blog della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, che stiamo aggiornando, insomma abbiamo tante novità, quindi io vi consiglio di andarla a vedere. C'è un nuovo video di solidarietà appunto a Facundo, di cui parleremo, e poi insomma l'off che vengono messi sotto l'oppressione. Quindi insomma, già aprendo il blog mapucheit.wordpress.com potete avere tante informazioni. Noi invece tornavamo a disturbarti, una volta che sei ancora lì, visto che a giorni poi tornerai, perché insomma dopo tanto tempo che sembrava che il Cile volesse far sparire un po' anche solo dall'immaginario e dal ricordo dei cileni Facundo, invece eccolo lì che ci appare in televisione, e tra l'altro in una lunga intervista in cui, come al solito, lui è sempre lui. Però ecco, sorprendente un po' che sia andato in televisione, no? Certo, è sorprendente, e dobbiamo diciamo prenderlo per la parte positiva, che finalmente si parla di Facundo Yanes Wala, preso prigioniero politico mapuche, perseguitato dallo Stato cileno e argentino, e anche per noi prigioniero politico della multinazionale italiana Benetton. E io non sapevo niente di questa intervista, che è molto importante, dà una visibilità enorme alla prigionia politica di Facundo, in un canale di televisione nazionale cilena, che vuol dire tanto, perché sappiamo che la gente è quella la televisione che guarda, purtroppo non è la televisione nei media indipendenti. Quindi è stato lo stesso Facundo ieri a mandarmi il messaggio dicendomi che lui aveva dato questa intervista e che sarebbe mandata in onda ieri sera, è stata guardata da tante mille, non so quante persone in Cile, e questo veramente è da sfruttare in questo momento, perché Facundo in questi ultimi momenti sta subendo una persecuzione istituzionale attraverso del razzismo giudiziario di questo paese, che ancora una volta continua a dire no a una libertà condizionale che è un diritto, perché come raccontava lui ieri nella sua intervista, lui ha compiuto già più della metà della condanna di 9 anni, sono 6 anni e mezzo, tenendo in conto anche la prigionia politica in Argentina, per cui qua c'è una evidente persecuzione. Come passa il tempo, Madonna, eh? Sì, e poi io ieri, penso ancora una volta, Marta, che ieri sera sentendolo parlare, che a me veramente mi trema il cuore di sentire tanta coerenza, tanta dignità, tanta fortaleza che lui ha, sentirlo parlare posso capire chi veramente hanno paura di liberare a Facundo Yanes Wala, perché lui non tace, perché Facundo dice quello che veramente succede in Cile, che c'è una prigionia politica contro il popolo mapuche, che è storica purtroppo, e mi viene da pensare ancora una volta che è la paura che hanno, che questa è la ragione per la quale hanno paura di liberare a Facundo Yanes Wala, per quello che lui significa per il popolo mapuche, per quello che lui trascina attraverso la resistenza mapuche in questi territori che stanno lottando contro la violenza statale e la violenza capitalista. Allora, lui ha parlato della tua detenzione e del razzismo, diciamo, che esiste da sempre, insomma noi l'abbiamo letto nelle ultimi rifiuti proprio Tralcalde, Pablo Benito Trangol, insomma di tutta una serie di autorità, Facundo compreso, a cui sistematicamente vengono negate, nonostante ricoprano tutti i requisiti richiesti, chiaramente in forma razzista, dicevamo, allora non sono stati dati, a tutti gli altri prigionieri cileni sì, quindi insomma era palese la persecuzione alla luce del sole. Ma se non mi sbaglio ha anche parlato un po' di quella che è la giustizia cilena verso i suoi, no? Verso adesso insomma cominciano, ci sono alcuni processi che vorrebbero fare giustizia su dei personaggi in divisa che sono stati più o meno coinvolti in situazioni di violenza verso popolazione o anche compagni e compagne mapuche. E lui dà una lettura molto precisa anche di questo tipo di giustizia, cioè di quanto fa ride fondamentalmente, no? Ci vuoi raccontare tu? Io poi l'intervista non l'ho proprio sentita tutta, però mi sembra che lui faceva anche un'analisi di come funziona il Weishafe, no? Il Winca nel suo sistema, quindi l'uomo bianco che cerca di punire là dove poi invece assolve sempre. Sì, diciamo che lui ha una visione molto chiara di come funziona la giustizia Winca, che si deve la giustizia, in questo caso la giustizia bianca del potere giudiziario argentino, che può essere il potere giudiziario cileno che lo perseguita da tanto per lottare in difesa della madre tierra e del territorio mapuche. E per lui non è niente, diciamo, di novità, non è niente di sorprendente. Il fatto di che si continuano, per dire, in questo ultimo periodo che io sono stata qua in Cile, la repressione quotidiana contro le comunità mapuche, la violenza però tremenda della polizia cilena che arriva in questi territori a attaccare le comunità mapuche. E che si continua a incarcerare a chi difende questi territori. Entonces, lì per Facundo è tutto chiaro, la giustizia esiste per i ricchi, esiste per i latifondisti, esiste per l'imprenditoria cilena, però non esiste per il mapuche solamente per difendere i propri territori. Riguardo a questo, lui dice chiaramente che nessun governo di turno e nessuna costituzione potrà mettere in pratica quella giustizia concreta, perché lui rivendica ancora una volta che il popolo nazione mapuche è una cosa a parte di qualsiasi stato, già sia cileno e argentino, per cui non possono essere parte di questa giustizia all'interno di nessuna costituzione come pensano in tanti, no? La giustizia cilena ancora una volta lo ha dimostrato, e lo voglio dire, ricordare, qualche mese fa, non solamente contro Facundo Jones Guala, anche altri prigionieri politici come i fratelli Trangol, José Trancal, che sono prigionieri politici che stanno subendo una lunga condanna per casi che non sono stati mai dimostrati e che sono stati ancora una volta accusati attraverso montaggi della polizia. È stato dimostrato ancora una volta che c'è una evidente persecuzione istituzionale in cui il potere giudiziario cileno attua a favore del governo e delle multinazionali, perché questi prigionieri politici compiono con tutti i requisiti per avere diritto alla libertà condizionale, invece le è stato negato senza nessuna motivazione legale. Quindi Facundo dice ancora una volta, a noi non ci cambia niente, per dire, in Argentina siamo riconosciuti come popoli originari nella Costituzione, ma comunque non è stato restituita nessuna terra al popolo mapuche, non sono state neanche rispettate la nostra vita come popolo originario. Allo stesso tempo, dall'altra parte, in Cile non siamo riconosciuti come popolo originario all'interno della Costituzione cilena, e comunque continua la repressione, la violenza, il carcere e tanti mapuche che sono uccisi per difendere queste terre. Quindi la logica sua è dire: non ci cambia niente essere riconosciuto in una costituzione, se alla fine, dopo, nel concreto, queste leggi non sono rispettate. Lo stesso ha detto sul convegno 169 della OIT, che tanto Argentina come Cile hanno firmato, hanno ratificato, en el reconocimiento de popoli originari, pero que no es stato mai portato alla pratica, perché le multinazionali continuano a portare avanti i propri progetti, ya sea de hidroelettriche, imprese forestali, a devastare territori, por lo cual no c'è un riconoscimento del popolo originario attraverso questo convenio, neanche il caso d'Argentina all'interno di una costituzione. Per quello che lui dice, non ho credibilità, non ho fiducia in nessun governo di turno, in nessuna costituzione. Primo, perché noi non siamo uno Stato, noi siamo e vogliamo essere come prima il popolo nazione Mapuche, con la nostra autodeterminazione, con il nostro territorio e con la nostra libertà. Esatto, credo che questo sia anche così un pizzicotto a quei Mapuche che si stanno un po' facendo coinvolgere, sì, da questo percorso. Non abbiamo mai nascosto che anche il popolo Mapuche insomma è diviso in tante forme, insomma la colonizzazione ha fatto il suo sporco lavoro, ecco. No, credo, sì, che sia anche, sì, diretto a queste persone, ecco. Sì, sì, lo so che è stata così, perché anche ieri sera in questo programma, dopo che è stata mandata in onda l'intervista di Facundo, c'erano tre Mapuche che sono parte del processo costituente cileno, e quindi io lo sappiamo, e anche lui lo ha detto ieri sera, che lui non ci sta con questo processo che è totalmente indipendente al popolo nazione Mapuche. Cioè, non possiamo essere inglobati in quella costituzione, perché poi ci dia una forma di popolo che dobbiamo essere. Io credo che questo, no? Nel senso, nella vecchia costituzione non c'era un riconoscimento di Cile delle popolazioni indigene, Mapuche o quello che sia. E nella misura in cui ci sarà, non vogliamo che sia lo Stato cileno a dirci che forma dobbiamo prendere per essere riconosciuti, perché noi la vogliamo scegliere in autonomia, in maniera ancestrale. Noi esistiamo da migliaia di anni, non c'è mai servito nessuno a darci una forma di Stato, una forma di istituzionalizzare il nostro popolo, no? Questo è il discorso che fa. Quindi sì, e ancora un riconoscimento, sì, ancora di vita nella me, libertà dell'autonomia del popolo. Certo, secondo me ancora una volta Facundo Uala dimostra la sua coerenza politica, dal momento che apertamente, come ieri sera, lui esprima che non possiamo aspettare niente di chi è stato sempre il nostro nemico, che è stato che in questo caso è lo Stato, ya sia cileno o argentino, e quindi non si transa e non si parla e non si discute con il nemico. E per me questo molto da valorare e da tenere in conto, di un compagno che si sta vivendo e affrontando una prigione politica per dire le cose come sono e come stanno. Certo, tra l'altro io, ecco, che per chi parla spagnolo, nel senso che l'intervista non l'abbiamo tradotta, non credo che la tradurremo adesso, insomma vediamo, perché abbiamo tanto lavoro da fare, però la potete trovare sulla nostra pagina Facebook per chi la volesse ascoltare, c'è proprio questa, c'è tutta l'intervista, quindi la potete andare ad ascoltare, perché comunque sentir parlare Facundo, sapere che parla da un carcere, lui unico accusato di un processo in cui sono stati tutti assolti praticamente, quindi insomma è vittima di una comunque di una persecuzione giudiziaria importante, che fa delle dichiarazioni assolutamente di un certo livello. Quindi io intanto invito chi vuole ad andarla a vedere e ad ascoltare, perché credo che sia forte. Che altro, non so se ci vuoi aggiungere altro, così è l'ultima volta che ci sentiamo dal Cile, così ti do il colpo di grazia. Ti do, sì, sta coltellata. Io più che altro voglio ricordare il popolo italiano, che Facundo Uala, come lui ha detto, è stato il pretesto del caso Pisupisue per la sua detenzione e per imprigionarlo, no? Però dobbiamo essere chiaro che in mezzo c'erano gli interessi economici della multinazionale Benetton in questi territori del Polmapu, parliamo della parte argentina, in cui la sua comunità Pulov Cusamen sta lottando da anni nel recupero territoriale di queste terre. Quindi ricordare al popolo italiano che la prigionia politica di Facundo Uala è responsabilità diretta anche di Benetton, per prendere coscienza che intanto che Benetton la passa liscia, e ancora una volta di quello che ho visto in questi giorni, non pagherà per i crimini capitalisti che continua a commettere. Abbiamo un compagno mapuche condannato a 9 anni di prigione politica per difendere le terre ancestrali del popolo mapuche contro l'usurpazione, la devastazione e la violenza capitalista di una multinazionale italiana come Benetton. Sì, insomma, lo dobbiamo ricordare, sicuramente il primo nemico di Benetton è Facundo Uala, perché io credo che Facundo Uala sarebbe tanto bene senza nemici, non è che se li va a cercare, gli si sono piantati dentro casa. Sappiamo quanto Facundo è stato perseguitato ancora prima di questa detenzione, perché il LOF in resistenza di Cushamen è proprio quel LOF che ha dichiarato veramente guerra al capitalismo, mirando colui che si è ritrovato dentro casa, ovvero l'enorme terratenente Luciano Benetton, un Benetton che noi ci ritroviamo sulle cronache dei nostri giornali, che ha veramente tantissimi tentacoli orribili e va veramente dall'Italia al Sud America, all'Argentina, a devastare. Il nemico è diventato Facundo, in quanto è veramente colui che, ascoltandolo, come dici tu, capirete perché la concretezza, la radicalità con cui parla, la chiarezza, la schiettezza con cui veramente chiama il proprio popolo ad andare spesso oltre le proprie divisioni e ricordarsi di un nemico comune, fa appello agli italiani a ricordarsi che Mapuche o non Mapuche, la lotta comune è la lotta contro Benetton, perché è il simbolo del capitalismo in questo caso, e sotto di lui poi ce ne sono tanti altri. Insomma, parlavamo di Colombia, parlavamo dell'Enel che anche in Cile, insomma, fa le sue porcherie, quindi, come vedete, e mi viene in mente la Bachelet, insomma, no? Che fino all'altro ieri era una presidenta di paesi che non rispettavano i diritti delle popolazioni indigene e che oggi si fa carina con l'ONU, casomai, a cercare di puntare un occhio su quello che succede ai diritti umani in Colombia. Bah, ci viene solo veramente un grosso bah. Sicuramente non sono le organizzazioni internazionali quelle che fanno una pressione, non sono le organizzazioni, le carte internazionali per i diritti umani, eccetera, eccetera, firmate da tutti i paesi, le organizzazioni per il lavoro, come appunto l'OIT, la Convenzione 160-196, com'è, che appunto dovrebbe garantire delle cose, che ogni volta che viene violata poi rimane lì così nel limbo e non si capisce mai che succede. Queste cose non sono staccate da di loro, fanno parte dello stesso meccanismo che perpetra poi la vittoria, comunque il silenzio e il continuare di certe persecuzioni e di certi schemi giuridici che poi, come dicevamo, vengono applicati. Quindi, appunto, il discorso non va da solo. Quando si parla di Facundo non si può non arrivare a parlare della famiglia Benetton, in quanto veramente direttamente responsabile della detenzione di Facundo, della sparizione di Santiago e di una persecuzione e devastazione dei territori e di chi li recupera, veramente unica, direi. Jerry, che dirti? Io ti mando un abbraccio enorme, torniamo a risentirci, spero che il tuo amaro ritorno sia comunque così consolato dal fatto che qui abbiamo anche cose da fare, e veramente non so che altro dirti, ti abbraccio fortissimo e ti aspetto. Sì, io te volevo solo aggiungere una cosa. Certo. Come Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, chiedo la solidarietà e il sostegno per la libertà di Facundo Uala. Raccontare che durante il mio periodo qua, purtroppo a causa della pandemia, le due volte che ho avuto l'opportunità, tra virgolette, di entrare nel carcere di Temuco a visitare a Facundo, non sono riuscita a farlo perché la città di Temuco è entrata in quarantena in fase 1, per cui automaticamente le hanno negato anche le visite ai prigionieri politici. Per cui una cosa che mi dispiace tanto, che mi porto nel mio cuore con molta amarezza, perché non sono riuscita a visitare a Facundo, abbracciarlo, portare tutto il nostra solidarietà internazionalista in questa carceraria dell'Italia, però che allo stesso tempo, dovuto a questa quarantena, le hanno dato il beneficio del telefono, quindi perché non ha accesso alle visite, e questo mi ha permesso di parlare con lui, fare le videochiamate quasi tutti i giorni, e sentire sempre le sue parole di coraggio, di dignità, di ribellione contro il capitalismo, in difesa della terra, e ringraziare, che l'ho detto mille volte, che non deve dire grazie, alla solidarietà e al sostegno della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche in Italia, perché come mi ha detto lui, siamo quelli pochi unici che non lo hanno abbandonato da quando è stato incarcerato, privato della propria libertà per lottare contro l'usurpazione e la devastazione di Benetton e di tutto il capitalismo in territorio Mapuche. Quindi anche far capire che noi solidali in Italia, grazie anche a te Marta e a tutti i compagni e compagni della rete, stiamo facendo veramente un lavoro in cui Facundo sente che non è da solo e che noi rivendichiamo con orgoglio la sua lotta, che continua a portare dall'interno del carcere di Temuco, nonostante sia privato la sua libertà. E a me questo veramente mi riempie il cuore di soddisfazione politica e umana, perché nonostante siamo così distanti dall'Italia al Cile, abbiamo questa comunicazione, questo rapporto meraviglioso con Facundo, e che come le ho detto una, due, tre, mille volte, non molliamo Facundo, qua nessuno si arrende, e continueremo a camminare con lui fino a che sia libertà. Dai, libertà per Facundo, ci uniamo chiaramente, insomma, da questa radio il minimo che possiamo fare è riuscire a dare voce a chi veramente ne trova molto poca, come vediamo, insomma, dell'informazione che possiamo fare parlando di situazioni veramente che fuori fanno difficoltà a uscire. Io ti abbraccio, Geri, ti aspetto di nuovo, a presto. Ti abbraccio anche io, ci vediamo presto, che ci raccontiamo un sacco di cose di questo popolo combattivo in Cile e in Gualmapu. Dai, un abbraccio. E grazie di tutto, compa. Marichi weu. Ciao ciao. Marichi weu.